102.2 Radio Sandona, buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking in compagnia di Alvise dai microfoni della centralissima via Cesare Battisti in quel di Sandona di Piavet. Daniele Terzariol dall'altra parte in cabina di regia che mi sostiene e mi unge. A questo punto, di cosa parliamo questa sera? Come è costume di Overbooking, parliamo di libri e per la serata ci accompagnerà Little Boy Blue, il più rappresentativo tra i romanzi a firma di Edward Bunker. Allora, facciamo un breve passo indietro. La settimana scorsa vi avevo parlato di uno dei libri che più mi aveva colpito inaspettatamente, ossia i terribili segreti di Maxwell Sims di Coy. Come dicevo l'altra volta, sul libro di Coy si era fatto un gran parlare in senso negativo, ossia Coy era reduce dall'esperienza con la banda dei Brocchi che gli aveva fruttato un successo planetario e lo aveva fatto conoscere anche oltreoceano. Il seguito dell'esperienza della banda dei Brocchi è I terribili segreti di Maxwell Sim e la critica è quanto mai scontenta. La critica urla: ridateci la banda dei Brocchi, rivogliamo i Brocchi, non riconosciamo più il vecchio Jonathan Coy. In realtà poi, leggendolo, il libro si fa apprezzare per una serie di motivi di cui abbiamo avuto a parlare la volta scorsa. In questo caso, nel caso di Little Boy Blue, siamo, secondo me, nell'altro lato della medaglia, ossia abbiamo un libro che è stato osannato dalla critica, di cui si è fatto un gran parlare e che è entrato molto nell'immaginario collettivo, non solo romanzesco ma anche cinematografico e musicale. Mi spiego. Little Boy Blue è un romanzo su cui Edward Bunker lavora per 2 anni. Inizia a lavorarci nel 79 e il libro vede le stampe negli Stati Uniti nel 1981. Da lì una serie di persone, una serie di metra pensée, possiamo dire, si affeziona a questo modo di scrivere che anche io apprezzo moltissimo, devo dire. E ad esempio, uno dei più grossi estimatori di Edward Bunker è proprio Quentin Tarantino, che definisce il libro come il miglior romanzo sul crimine che io abbia mai letto. E Quentin Tarantino, in più interviste che potete anche reperire in YouTube, si ispira al modo di scrivere, il modo di raccontare di Edward Bunker per la narrazione e la concatenazione degli eventi che usa nei suoi film. Quindi Little Boy Blue assurge agli onori della cronaca con proprio per per il suo, diciamo, la sua trama semplice ma al contempo, mi verrebbe da dire, contundente. Lo stesso a me lascia dei dubbi e non fatico a dirvi che è uno dei miei autori preferiti, quindi è un po', cioè, dover parlare male del proprio figlio in qualche modo, però lo stesso appunto mi lascia dei dubbi che proverò poi a spiegarvi nel corso della trasmissione. Di più, dicevo, si è creato un grosso hype dopo la stesura di questo romanzo e le influenze si sentono ancora oggi. Ad esempio, vi faccio un esempio banalissimo: nel mondo musicale questo libro, come dicevo, esce nell'81, Tom Waits realizza una canzone dallo stesso titolo, Little Boy Blue, che vedrà le stampe nel 1982. In più, se andate a leggervi il libro, ad un certo punto Alex Hammond, che è il protagonista del libro, di cui parleremo poi diffusamente nella puntata, Alex Hammond, che ha un ruolo, diciamo, molto autobiografico, nel senso che l'autore Edward Bunker è stato in carcere per ben 18 anni nella sua vita e quindi parla di un'esperienza di esperienze che ha realmente vissuto. Beh, Alex Hammond a un certo punto passerà da un riformatorio all'altro e approderà infine alla Preston School of Industry. Questa Preston School of Industry è uno dei più famosi penitenziari minorili degli Stati Uniti d'America. Beh, per chi di voi conoscesse un gruppo, i Pavement, dopo lo scioglimento dei Pavement il cantante riforma un altro gruppo e come lo chiama? Lo chiama Preston School of Industry, e proverò a farvi sentire qualcosa, quantomeno dei Pavement, questa sera. come si diceva, un grosso hype per uno degli autori statunitensi maggiormente rappresentativi. Edward Bunker è, diciamo, la sua stessa vita è un romanzo. Nasce negli anni 30, è californiano, nasce a Hollywood. Vive, come dicevo, 18 anni della sua vita in carcere, ma già dall'inizio è figlio di una broken family, vive col padre, il padre non può curarsene e sostanzialmente passa da un riformatorio all'altro fin dall'età dei 10-11 anni, da un'età prepuberale che è sostanzialmente quella in cui noi incontriamo Alex Hammond, il protagonista appunto di questo Little Boy Blue. Diciamo che la vita di Edward Bunker è, come dicevo, un romanzo in sé. Perché? Perché questa persona vive al limite tra la legalità e l'illegalità, ma contemporaneamente è affascinato dalla letteratura e ha un quoziente intellettivo di 180, che è un qualcosa di abnorme e mostruoso, e è qualcosa di assolutamente non comparabile con la media dell'ergastolano o del carcerato statunitense del tempo. Quindi Edward Bunker, intervallando i suoi periodi di libertà con i periodi in carcere, si innamora della letteratura e della scrittura, e quindi la scrittura diventa ad un certo punto per Edward, almeno a mio modo di vedere, e anche lui lo dice in Educazione di una canaglia, che è un libro edito da Bompiani e poi ristampato da Einaudi, che proprio parla della sua vita, è un'autobiografia a tutti gli effetti. La scrittura, dicevo, per Edward Bunker diventa un vero e proprio atto di redenzione, ossia lui scrive per liberarsi delle esperienze dure, pesantissime, che gli capitano nella vita. Come dicevo, inizia a scrivere in carcere e proprio dall'esperienza carceraria trae la maggior parte dei suoi successi, che sono al momento successi planetari. Questo stesso Little Boy Blue è tradotto in 42 lingue. Tra gli altri romanzi che mi sento di segnalare, a parte l'autobiografia, come dicevo prima, di Edward Bunker, Come una bestia feroce e Animal Factory e Cane mangia cane, sempre continuando con i paralleli cinematografici, sia per Animal Factory, che è un libro del 2004, almeno è uscito in Italia per Einaudi nel 2004, e sia di Cane mangia cane sono stati fatti due ottime trasposizioni cinematografiche. Se vi informate un po', si può trovare anche un film intitolato Little Boy Blue, che è un film del 1997 diretto da un nostro connazionale, almeno in origine, Antonio Tibaldi. Non fatevi ingannare, nel senso che questo è un film che condivide il titolo ma non condivide la trama, nel senso che Little Boy Blue, il film, è un film che tratta la storia sostanzialmente di un reduce del Vietnam e il suo reinserimento nella società statunitense e i problemi che si instaurano con la famiglia e i figli, ma non ha niente a che vedere con il romanzo di Edward Bunker, che adesso, prima di andare ad esplorare nel maggior dettaglio e andare con la voce di Daniele Terzariol, che ormai è un po' un ospite fisso di questo programma, dicevo, prima di andare a esplorarlo, mi si consenta l'ultimo link con il mondo non strettamente letterario, con il mondo musicale. Come dicevo, Tom Waits si fa influenzare dalla scrittura di Bunker e scrive un brano con lo stesso titolo, Little Boy Blue, ma non è solo lui a farlo, e quindi scelgo questo secondo autore perché altrimenti qui la gente se la prende, perché si mette solo Tom Waits e inizia a essere un po' pesante. B, perché l'autore ne fa l'autore in questione, Bonnie Prince Billy, ne fa una versione veramente veramente molto toccante. Quindi, prima di continuare sui 102.2 di Radio San Donà a parlare di Little Boy Blue, Edward Bunker, il libro di questa sera, andiamo a sentirci Bonnie Prince Billy, appunto, con Little Boy Blue. 102.2 Radio San Donà. Thought I was so high above you. so good to me. Even though you knew I didn't love you, you were still good to me. Used to make you happy to see you cry. You were so good to me, and that's no lie. Used to call me Bunny. Bonnie Prince Billy, 102.2 Radio San Donà, in compagnia anche questa sera, come tutti i mercoledì sera, di Overbooking, Alvise ai microfoni, per cercare di tenervi compagnia con un romanzo. Questa sera ci stiamo occupando di Little Boy Blue, a firma di Edward Bunker, in Italia uscito per Einaudi nella sua ultima, diciamo, nella sua ultima apparizione. Prima era già uscito per Bompiani. Per Einaudi ne potete trovare due edizioni, una prima nel 2003, poi una ristampa anche più carina dal punto di vista almeno della copertina iniziale nel 2011. Se siete interessati all'autore, come dicevo, un autore quanto mai prolifico, Bompiani e Einaudi in diversi momenti hanno pubblicato quasi tutta la sua produzione, e quindi ad esempio per Einaudi trovate Come una bestia feroce, che vi consiglio veramente caldamente, e Cane mangia cane, uno rispettivamente nel 2001 e nel 1999. L'altra opera che ha dato, diciamo, la gloria a Edward Bunker è Animal Factory, che in Italia è stato tradotto nel 2004, sempre per Einaudi. Come dicevo, Little Boy Blue narra la storia di Alex Hammond. Tra l'altro, se volete un momento di gossip, Alex Hammond è un nome quanto mai simpatico, nel senso che è lo stesso nome di una celeberrima commentatrice sportiva inglese, che si occupa più che altro di corse dei cani, ippica e polo, e quindi in un certo senso diciamo ha alcuni punti di contatto con il nostro Alex Hammond. Perché Alex Hammond, come dicevo, la cronista di Sky Sport Inghilterra, ha una passione particolare per la scrittura e per la lettura, e ha scritto, tiene un blog in cui consiglia libri, e ha scritto lei stessa alcuni libri, e anche il nostro Little Boy Blue, questo Alex Hammond, ha la stessa passione, una passione per la lettura che matura nei numerosi riformatori a cui dovrà adattarsi, e in cui lo seguiremo leggendo questo romanzo. Bene, Diciamo che all'inizio del romanzo Alex Hammond ha tutta la nostra compassione e tutta la nostra, tutto il nostro supporto. Si tratta di un bambino di 11 anni e la scena iniziale che lo ritrova all'interno di una macchina. Lui è seduto dietro mentre davanti c'è un assistente sociale alla guida e il padre a fianco. Si scoprirà ben presto che Alex è figlio di Clem Hammond, che è questo suo padre lo ha avuto molto giovane, e Clem è un carpentiere, ma ricordiamo siamo nei primi anni 30 e in sostanza Clem passa da un lavoro all'altro senza riuscire a trovare una professione fissa. Ricordiamo che in un qualcosa che ci ricorda molto la condizione attuale, siamo durante la grande depressione che segue la crisi del 1929, quindi siamo nel 33, e Clem fa tutti gli sforzi possibili per trovare un lavoro e per dare una stabilità e una continuità al suo rapporto con il suo unico figlio Alex, appunto. Non riuscendovi, chiede aiuto disperatamente a delle strutture pubbliche, e una di queste sta per ospitare Alex quando, seduto nei sedili dietro di questa macchina guidata da questo assistente sociale, percorre una strada che esce un po' da Los Angeles proprio per raggiungere questa colonia militare dove Clem lo sta per lasciare. Una cosa che colpisce subito è che Edward Bunker parla di Los Angeles, e il nostro immaginario corre a una Los Angeles come siamo, almeno per quanto mi riguarda, come sono abituato a pensarla nei film, ossia una striscia interminabile di negozi che si alternano a strade, che si intervallano con altri negozi, centri commerciali, eccetera eccetera. Invece no, Edward Bunker parla di una Los Angeles degli anni 30-40, ossia sterminati campi, aranceti, cavalli che pascolano allegri e una vegetazione che non siamo abituati a pensare, o non ci viene, almeno per chi non c'è stato, non ci viene immediato pensare quando si sente parlare di Los Angeles. Alex Hammond, potete immaginare, è seduto appunto dietro questa macchina e si sta avviando in compagnia dell'assistente sociale e del padre Clem verso questa colonia, non ancora detentiva, ma questa specie di sorta di collegio militare. Ovviamente nella testa del ragazzino passano una serie di idee velocissime che riguardano il rapporto col padre e anche il suo stesso futuro. Quindi diciamo c'è un po' uno dei temi che è tanto caro a Bunker qui, un passaggio tra virgolette obbligato tra quella che è quella che è l'infanzia e quella che è l'età adulta, la separazione dalla famiglia e l'inizio di una vita nuova che a partire dall'esperienza pregressa del bambino può portare più guai che meriti. E infatti come reagirà Alex? Alex reagirà in maniera diciamo scontrosa fin dall'inizio, ossia ingaggerà una colluttazione col padre stesso e con l'assistente sociale all'arrivo alla scuola. Cioè non vorrà uscire dalla macchina, si avvinghierà ai sedili cercando in tutti i modi di ritardare il più possibile il momento del distacco dal padre. E qui, come dicevo, Alex Hammond ha tutta la nostra stima e tutto il nostro favore. Dopodiché vedremo in breve come andrà a evolversi la storia, ma come sempre, come è buon costume di questa trasmissione, andiamo a leggerci, e con la cocente voce di Daniele Terzariol, andiamo a leggerci quella che è l'incipit di Little Boy Blue, Edward Bunker. Capitolo 1. Nell'estate del 1943, una bellina Ford nera e banale, con a bordo 3 persone, viaggiava da Los Angeles alla San Fernando Valley, passando per il Cahuenga Pass. Un assistente sociale di mezza età era al volante. Al suo fianco sedeva un ragazzino di 11 anni. Il padre del bambino occupava il sedile posteriore. I visi erano scuri, gli sguardi rivolti oltre il parabrezza, L'assistente sociale aveva un'aria arcigna, frutto, in realtà, di una lunga pratica di stoicismo intesa a isolare le sue emozioni e i dolori e la compassione. Il padre era l'immagine della determinazione silenziosa, una determinazione appena incrinata alle pieghe della preoccupazione. I muscoli della mascella pulsavano mentre aspirava il fumo della sigaretta. Le labbra del ragazzo erano quasi invisibili, risucchiate tra i denti, che di tanto in tanto le mordevano per soffocare la collera che covava come fuoco sotto la cenere. Esercizio di coraggio, per farsi forza e autocontrollo. La ribellione era imminente, ma ancora prematura, in quel particolare momento. Oltre il Cahuenga Pass, la grande autostrada si incurvava in meandri ai piedi delle colline punteggiate di case bianche nascoste nei declivi di verde. L'assistenza sociale imboccò una strada dritta e stretta fra le distese sconfinate di aranceti. Ogni tanto, oltrepassando qualche casa di legno costruita sui margini della strada, balenava uno sprazzo di bianco. La giornata era calda, l'aria densa di polvere, il parabrezza imbrattato delle macchinine di insetti spiaccicati. Incrociarono due ragazze che, con le gambe nude, cavalcavano a pelo una grossa giumenta. Nel 1943 la Fernando Valley era ancora campagna, senza smog e senza case mobili, dove vivevano alcune piccole comunità separate tra loro da chilometri e chilometri di cedri ed erba medica. Il ragazzo teneva lo sguardo fisso davanti a sé, come impietrito alla striscia bianca al centro della carreggiata nera che spariva nel riverbero delle vampate di calore. In realtà non aveva nulla, non sentiva nulla. Pensava a quanti tragitti, identici a quello, avevano fatto all'età di 4 anni, al termine dei quali, però, si trovava in un posto nuovo, diretto da sconosciuti. Era quasi tutto ciò che riusciva a ricordare, collegi, scuole militari, case d'accoglienza, quei posti, insieme a brandelli di scene spaventose, fatti di litigi e lacrime, prima dell'arrivo della polizia che veniva a mettere pace. Ogni volta che pensava a sua madre, aveva davanti agli occhi il viso di lei sfigurato alle lacrime. Sapeva di detestarla, senza saperne il motivo. Il vocione ruggente di Daniele Terzariol, un po' Barry White de Noantri, potremmo definirlo, ci accompagna nella lettura dei Little Boy Blue, Edward Bunker. Allora, abbiamo trovato questo Alex Hammond, un undicenne piuttosto problematico che ha vissuto la sua infanzia entrando e uscendo da diversi orfanotrofi e centri di istruzione tra virgolette forzata a causa di un padre che non sta facendo il padre, un po' per problemi che riguardano la sua attività lavorativa, perché non riesce a garantirsi un posto fisso e una continuità nell'opera, un po' perché l'altra parte della famiglia, e questo non lo avevo anticipato prima, l'altra parte della famiglia, ossia la madre di Alex Hammond, è morta prematuramente, e questo influenza poi un po' con continuità i rapporti che Alex Hammond andrà ad instaurare con le, per la verità, poche donne che incontrerà nel corso del romanzo. La prima donna che di cui veniamo a sapere leggendo le pagine del libro che Alex incontra e con la quale, bisogna dire, si scontra pressoché immediatamente è Thelma Cavendish. Thelma Cavendish è la reggente della Valley Home for Boys, questo istituto semimilitare in cui Alex viene tra virgolette rinchiuso o in cui viene, diciamo, lasciato dal padre per studiare e per essere educato. Ma cosa succede? Un compagno di stanza di Alex si rende protagonista di un piccolo furto e Thelma Cavendish reagisce punendo l'intera camerata e quindi anche Alex in prima persona, tra l'altro, sebbene il ragazzo non avesse fatto nulla. E quindi come reagisce un bambino di 11 anni impaurito e con pochi anni alle spalle e parecchi anni di un futuro un po' così come ce lo descrive Edward Bunker davanti? Beh, reagisce scappa assieme ad un compagno di orfanotrofio, e qui prende avvio la storia. Perché? Perché sostanzialmente i due ragazzi scappano e trovano un'arma all'interno di un negozio che cercano di rapinare nottetempo. I ragazzi si rifugiano lì perché non stanno mangiando da qualche giorno e hanno fame, e è scesa la sera, vorrebbero mangiare qualcosa e cercano di entrare in questo negozio. Nel negozio trovano un'arma, ma vengono anche scoperti. Perché? Perché il compagno di Alex sostanzialmente fa molto rumore facendo cadere alcune cose, mentre al buio, in questo piccolo al supermercato, cercano qualcosa da mangiare, caramelle, dolciumi, eccetera. Arrivano dei vigilantes e soprattutto arrivano i proprietari del negozio. I proprietari fanno irruzione nel negozio e Alex involontariamente spara, terrorizzato e paralizzato dalla paura, spara, dicevo, a uno dei due. Fortunatamente non lo uccide, ma questo genera una spirale negativa nella vita di Alex, che il ragazzino non sarà poi più in grado di arginare. E da qui parte la storia nel senso che seguiamo Alex nelle sue peripezie attraverso vari istituti di pena e vari istituti di rieducazione un po' in giro per gli Stati Uniti, nel senso che dopo questa sparatoria Alex viene condannato e viene messo in un carcere minorile. Lì rimane per qualche tempo, ma fino a quando, in un certo senso, viene stabilita la sua mancata sanità mentale, la sua incapacità di intendere e di volere nel momento in cui aveva commesso il fatto. A questo punto viene trasferito in questo caso in un istituto di rieducazione per malati mentali, e qui fa delle esperienze che sono quantomeno atipiche per un ragazzino in età prepuberale. In sostanza, la sua educazione su chi sono le donne, come rapportarsi al sesso femminile e come essere uomo a tutti gli effetti, non è più affidata al padre, che intanto muore, ma è affidata a tutti gli effetti ai membri della casa di accoglienza che frequenta. E vi cito due personaggi su tutti. Edward Bunker da questo punto di vista è molto bravo a tratteggiare il personaggio e anche a far prevalere in un clima sostanzialmente cupo alcuni aspetti umoristici un po' grotteschi che caratterizzano alcuni dei personaggi. Alex Bunker, Alex Hammond, scusate, però va benissimo dire Edward Bunker, perché, come dicevo, il protagonista è qualcosa di molto autobiografico per lo scrittore. Alex Hammond inizia a capire che cos'è l'età adulta quando conosce First Choice Floyd e Red Brazzo. Chi sono questi due? Questi sono due eroinomani neri. First Choice Floyd, tra l'altro, è una figura particolarmente interessante perché è un ex pugile First Choice, ma poi approdato ingiustificatamente all'eroina. Questi due, come prima cosa che si insegna ad un ipotetico figlio nel momento in cui sta diventando grande, gli insegnano sostanzialmente a fumare, a bere e a giocare d'azzardo. E questo un po' contraddistinguerà poi quello che è l'evoluzione della vita di Alex Hammond. Prima di andare a parlare ulteriormente di quella che è la trama di questo romanzo, facciamo un altro intervallo musicale e, come sempre, ci affidiamo a qualcuno che forse non riuscite a sentire così tanto nella programmazione tipicamente della radio, di Radio Sandonà, anche se spazia veramente a 360 gradi, ma della radio in genere. E quindi questa sera andiamo a sentirci un po' di John Coltrane, I'm Old Fashioned. Thank you. John Coltrane, 102.2 Radio San Donà, Overbooking, come tutti i mercoledì sera per parlare di libri, ma non solo, sui 102.2 di Radio San Donà. Questa sera Edward Bunker, Little Boy Blue. Potete intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 e dicendoci tutto quello che pensate del programma, suggerimenti e quant'altro sono sempre ben accetti, anche suggerimenti per quanto riguarda i libri da presentare, o volete voi stessi sostituirmi e presentare di primo pugno un libro che vi è piaciuto o che vi è interessato, beh, potete farlo. 0421 560993, parlatecene e noi siamo qui, i microfoni in radio sono aperti e sempre pronti per chiunque voglia cimentarsi, altrimenti radio@radiosandona.it e anche lì rispondiamo via etere. La puntata è ascoltabile, oltre che sui 102.2 di Radio San Donà in replica il giovedì sera, è sempre ascoltabile via web. Potete sentire il podcast da www.bloverbooking.wordpress.com. Potete, come dicevo, sentire lo streaming oppure scaricare il podcast. Il sito, lo ripeto, è www.bloverbooking.wordpress.com. Si tratta di un blog tenuto da Matteo Polo, che ci aiuta sempre con questa importantissima attività, in cui Matteo si occupa di recensire per iscritto tutti i libri di cui ci occupiamo su Overbooking, ma non solo. Se ci sono delle iniziative letterarie interessanti in quello che è il panorama sandonatese e regionale in genere, verrete prontamente informati proprio tramite questo mezzo informatico sull'avvenimento stesso. Vi segnalo, come sempre, quella che è un'iniziativa secondo me veramente molto pregevole dei nostri cari amici, se così si può dire, presso le librerie Coop, continua ogni venerdì alle 17.30, quindi le librerie Coop situate al centro Piave, continua, dicevo, il venerdì del libro. Il Circolo del Libro presenta, e i presentatori si alternano di venerdì in venerdì, presenta un libro a settimana e lo discute con i presenti. Quindi I componenti del club a turno si cimentano nella spiegazione e nella narrazione di un saggio o di una novella o di un romanzo vero e proprio e lo discutono con i presenti. Questo secondo me è un'iniziativa veramente interessante e anzi vi invito caldamente non solo a partecipare come uditori ma anche voi stessi se vorrete a cimentarvi nella presentazione di un libro che vi sia particolarmente piaciuto. Detto questo, torniamo a parlare di Edward Bunker e il suo Little Boy Blue. Beh, questo che è un po' il pensierino finale della sera su questo romanzo. Come dicevo, è un romanzo di cui si è fatto un gran parlare e che, secondo me, ha influenzato un bel po' l'immaginario collettivo statunitense. Si tratta dell'opera principale di uno degli scrittori più rappresentativi della letteratura americana del Novecento. Cosa dire? In sostanza io sono rimasto, come dicevo, si tratta di uno dei miei scrittori preferiti, e io sono rimasto un po' perplesso alla fine del romanzo. Perché? Sostanzialmente mi colpisce come sempre il modo di scrivere asciutto, molto pulito, ma molto, molto oggettivo e in grado di, diciamo, portare avanti idee anche complicate con una terminologia molto semplice. E questo secondo me non è una dote di tutti gli scrittori, ossia se cercate uno scrittore molto barocco sicuramente non è Edward Bunker, ma questo secondo me ha quantomeno dei pregi. Dopodiché la narrazione è semplicissima, molto lineare. Si segue la storia di Alex Hammond e delle sue peripezie tra vari istituti diciamo prigionia / rieducativi a partire dagli 11 anni fino all'adolescenza. Diciamo che un qualcosa che trovo di assolutamente positivo è il dare la voce agli sconfitti, ossia la capacità che ha Edward Bunker, probabilmente legata anche alle sue esperienze di vita, di diciamo far parlare gente che normalmente voce non ha e che in linea di massima è in grado di invece di portare avanti idee e concetti che normalmente la società tende a dimenticare. Per contro, se devo trovare un punto di debolezza al libro, mi viene da dire che ad un certo punto risulta un po' ripetitivo. Un po' ripetitivo nel senso che la scena si evolve allo stesso modo più e più volte, ossia arrivato, il libro è abbastanza lungo, sono intorno a 600 pagine, arrivato verso pagina 400 io mi trovavo a dire va bene, è arrivato in una nuova prigione, e detta semplicemente cosa cambia rispetto alla prigione precedente, cosa c'è di nuovo? Ovviamente Bunker è molto bravo a descrivere le situazioni, la diversità delle situazioni, la diversità di trattamento a cui è sottoposto Alex Hammond e le diverse sensazioni che si trovano. Tra l'altro, se posso fare un piccolo parallelo, mi è capitato recentemente di leggere Sorvegliare e punire di Foucault e facendo un parallelo con quella che è la storia, e credo abbastanza autobiografica, di Alex Hammond, si nota proprio diciamo in questa escalation punitiva nei confronti del ragazzo un abbandono progressivo del ruolo di rieducazione della struttura carceraria e un ruolo sempre più punitivo man mano che il ragazzino diventa adulto. Perché? Perché si fa strada nel tempo l'idea che a questo punto, superata la fase della prepubertà e dell'adolescenza, il ragazzino sia in qualche modo irrecuperabile. Lo stesso per un lettore che magari non voglia cogliere il lato, se mi è concesso, più sociologico del racconto, del romanzo, lo stesso lascia un po' di amaro in bocca il fatto che ad un certo punto non si riconosca più una trama e una narrazione che abbia verve. Ad un certo punto, secondo me, la narrazione si avvita un po' in se stessa. Lo stesso lo straconsiglio, perché comunque vi capita di leggere un qualcosa su una realtà che noi, la realtà carceraria che noi in sostanza mistifichiamo dietro, per quanto almeno mi riguarda, io parlo molto di me, dietro la nostra conoscenza che è legata a qualche film, a un qualche Sylvester Stallone in Atto di Forza piuttosto che in Over the Top. Ma invece qui abbiamo delle esperienze di prima mano. Per contro, lo da prendere un po' con le pinze. Se dovessi usare un giudizio della Gazzetta dello Sport, direi 5,5. Si sforza, ha qualche momento brillante, ma poi a un certo punto l'autogol. Detto questo, vi lascio alla programmazione di Radio Sandonà. Vi rimando alla prossima settimana con un nuovo romanzo. Vi posso già anticipare quale sarà il romanzo in questione. Rimaniamo negli Stati Uniti, un altro autore americano, statunitense. Si tratta di Faulkner, premio Nobel per la letteratura negli anni 80. Questa volta abbiamo scelto uno dei suoi romanzi forse meno conosciuti, però che crediamo abbia bisogno di essere riscoperto. Si tratta di Mentre morivo, e è un romanzo ambientato nel sud degli Stati Uniti ad inizio secolo e riguarda le vicissitudini di una famiglia contadina nel momento in cui la madre di questa famiglia composta da 6 elementi muore. Ritornando ad Edward Bunker, chiudiamo questa trasmissione non prima di aver salutato Daniele Terzarioli in regia e Matteo Polo, che come sempre ci aiuta con il blog di Overbooking su www.overbooking.wordpress.com. Vi salutiamo con Vax Taylor, non prima di segnalare una correzione che mi è stata fatta in tempi record dal sempre solerte Matteo Polo, nel senso che Atto di Forza lo ha fatto ovviamente Schwarzenegger e io sono un cialtrone, ma quello che, parlando di Sylvester Stallone, c'è sempre Fuga per la Vittoria, Stallone che fa il portiere con Pelé e tutti in carcere. Beh, a questo punto Vax Taylor, che sarà un remix della celebre Che sarà, che un po' ci fa pensare a quale potrebbe essere il futuro di questo Alex Hammond di fronte a questi bivi importanti che una vita e un'infanzia un po' troppo veloce gli pongono. Buona serata, rimanete sintonizzati sui 102.2 di Radio Sandonà, e questo è Vax. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. I have something to tell you. The lock. Now listen.